My father's name was Elijah, and my name is Ragnar Pfizer. La notte delle streghe, la notte dei belli, la notte dei belli, Paolo Belli. No, oggi diciamo, cioè, diciamo le cose come stanno. Oggi è il giorno dei morti. Non è Halloween, perché noi odiamo Halloween. Della sana pole. E noi boicottiamo Halloween. Quindi bambini, non venite a suonare il campanello di Otto Radio, perché succede un casino. Cioè, se sento solo un dolcetto scherzetto, vi arriva la polpetta avvelenata. Noi vi diamo come i cani. Il panino con la frittata. Sì. E a letto presto poi. Ecco. Perché siete bambini, quindi bisogna andare a letto. E la mia dose di fiele del lunedì è già, l'ho già sputata. Un pochino, poi mi sa che pochino, c'è. Un pochino. La sacca si svuoterà dopo. Sì. Ne ho ancora tanto. Durante la trasmissione. Ne ho ancora tanto di veleno in corpo accumulato in questo fine settimana e in questo fantastico lunedì. Di lavoro, perché io non conosco il ponte. È per quello che ti girano gli occhi. Infatti vedi, sono più tranquillo oggi, sono stato a casa. No, ma io sono tranquillissimo. Sono andato volutamente a lavorare. Fatto bene. Sono contro il ponte, contro quelli che hanno fatto il ponte. Contro voi lavoratori che avete fatto il ponte. Vabbè, ben sintonizzati. Questa è comunque sia Ragnar Pfizer. Ragnar Pfizer. Dalle 21 fino alle 22:30 tutti i maledettissimi lunedì. Tutti i sacrosanti lunedì che Dio mette in terra. Stasera versione ridotta, non di tempo ma di staff. Salute a Biga. Se il Signore un giorno vorrà che Pasqua venga di lunedì invece di domenica, noi faremo lo stesso. Noi certamente, ma bisognerebbe guardare quando casca Natale. Se Natale casca di lunedì, noi facciamo. Noi veniamo lo stesso, non ce ne frega nulla. Nessuno ci arresta. Non ci ferma nessuno. Nessuno. Vabbè, ci siamo segnati un po' di cose da dire, ma le diciamo dopo. Sì, fra l'altro anche qualche evento, cioè qualche evento. Ora, insomma, qualche serata, via. Qualche serata e ci sarà stasera, però ve la diciamo dopo, perché se no voi dopo fai furbi, spengete la radio vanno, e andate la serata. Quindi ve lo diciamo dopo ve la dico. Ecco, ora ci sta, vi mettete a sedere. Tranquilli, boni. Vi scaldate la minestrina, vi mettete lo scialle sulle gambe. Chiaro. E vi sentite la Ragnar Pfizer. Se poi dopo non vi è preso sonno, allora magari potete andare alla serata. Però ve la sentite fino a un fondo. Ve la assorbite tutta. E sparate a qualsiasi bambino che viene. Vabbè, c'è Bubu pronto sull'1 e 2, quindi vi lasciamo andare lui fino a non so a che ora. Ora guardiamo. Scusami, che cos'è l'1 e 2? Ciccio, si vede che non ascolti mai la radio estera. No. On the 1 and 2, sull'1 e 2. Ok. Bubu. Thank you. Thank you. night. Yo, I'm lethal like injections, teaching niggas lessons. I fry that ass up like I'm Weston. So come equipped and don't slip, cause if you slip, I sink that ass just like a ship. I got the mic in my grip, the heat is on my hip, just in case niggas wanna flip. I see my niggas in sight, everything I coming out of fucking Crown Heights. Ain't no chips on my shoulder, strictly boulders. My shit be on point like a soldier. It's the evil that men do. Who we do? I do. You ain't your whole fucking click, click. The gun is on cock. Niggas need to stop. I wet that ass up like a mop. Well, Lord, yeah, just to follow my man on the verse. It's the Sea Dog, yeah, time to call the hearse. So back up off the mic and let me rumble through your woofer. I got rough, but now I'ma get rougher. It's the court drinker, so turn up the level. I came to get raw, plus wicked like the devil. It's the no holds barred. Shit is wild. I got the eye to the double L style, and I don't be no rookie or no beginner. I gets badder than the motherfucking sinner. Ready to rock, rock, rock. Ready to rock, rock, rock. Ready to rock, rock, rock. Ready to rock, rock, rock. Ready to rock, rock, rock. Ready to rock, rock, rock. Ready to rock, rock, rock. Ready to rock, rock, rock. Ready to rock, rough rhymes. It's the Sea Dog back with 12 new lines. With the ill all out type shit for your head. It's the man that'll make niggas rise from the dead. So get ready, always on my worst behavior. Up in the booth, yeah, bringing mad flavor. So back up off the mic and let me show my skill. It's the scheme, yeah, niggas got to chill. Peace to my nigga DL with the beat. And peace to all my niggas on Union Street. And to your fake ass niggas, keep on walking. A DL, yeah, the OE is on. Oh yeah, bringing up the rear and we don't front. Never that, nigga. Becoming mad thick and we on the hunt. So why you wanna test and end up in the mess? I come in mad wilder than the West. I leave your suit like sail, I never fail. I boost the track up like the third rail. Fake MCs endangered like a species. Your shit stinks like motherfucking feces. I'm chillin' and relaxin' in the maxin'. Your style is improper like a fraction. Yo, I'm out to get mine. Get yours, nigga. Ready to rock, well, rock, let me rock. Come and get a little bit, son, I'm feelin' it. It's the bubbly. Niggas know the deal, I got the steel in case of trouble. Got more troopers than the Suzu. Kid, I bruise you, abuse you. My sewer style will confuse you. I got the touch, so niggas spark the touch. I'm guaranteed to rip up any microphone I touch and plus. We kick that ass back. Back and forth, just like a Leah. See ya, too bad I wouldn't wanna be ya. You know the Leah when I see a nigga walking up. Cause if a nigga think they got the flow, I stop it up. So now I'm so you can hear the rest of this. The woman bang the shoulder while we be. Thank you. receiving your Reeboks. Thug you out, take you on tour, look on the wee spots. We can sit wine, bump and grind on a slow-mo. But on a D-Lo, I heard your man was a homo. We can combine just like 2-5 and Dolo. Tell me where to put it like solo. Meet me at 702, I like your Stilo. Now boom, face it, you're banging to your ankle bracelet. I went against the grain when I said I never taste it. You work all day, coming home ready for foreplay. Your favorite dish, hominy grits and fish saute. You love a thumb rule, highly impressed by my tattoo. Slim cut, walk with a strut, keeping it natural. Your physical frame is like a Jada Pinkett. I like to hear your moan spanking, grab your X and O anklet. Freak off. So high, so high. Sick and tired of you wanna be thug. He got you heated, knowing that you need it. But he's still afraid to eat it. Friday night, you tell him that you out with the girls. But you zoning in my world, getting back to your girl. I got the fireplace, bare skin rug, so kick your feet out. Hit me on the head, bay 100, I got the weed out. Keep it on low, now bust the weed out. Slide off the DKNY so I can eat out. Jump inside the jet black fiber, watch it speed out. Adrenaline got you open like a stack of Benjamins. Back to band against eating pasta with Dominicans. Eat it up, man. Drinks on me. What you want for style, son? You got that. Yeah. Real niggas in the front, fake niggas in the middle, live niggas in the back. Shake just a little, real niggas in the front, fake niggas in the middle, live niggas in the back, shake just a little, thug, y'all. inhabited the earth since the Genesis. Yeah, forced to wander like an alien in the wilderness, but that's cool. As I grew, nature taught me harmony, plus the utmost love for God's creation. Balancing is the key to strive and maintain. For example, instinct and animal and the food chain gets out of sync. So just think, it's the same thing now. We need predators to kill all sick, lame style. Before diseases infest the whole industry like wackness, acquired through vocal rhyme deficiency. Often carry their mics when it passes through MCs. All who grabbed it broke out in rashes. And if not this, within the next 24 hours, it swell and explode just like nuclear power. So before the reactor melts down, my main factor is a captor. He's slapping, captor, slapping, jacking. When I feel the need to put MCs in check, my styles go more direct than verbal sex on the internet. Interlocking links like chains, interchanging lanes, destroying every spot I land on like acid rain. Trains of thought detract from the railway. God's gift blocks are wax styles that comes my way. Often compared to karate, you can ask that Mexican who told me to kick back my yate. So I kicked them, roundhouse combinating with sweeps, rounding out with spins, bringing my knees to a stand to finish them. The antidote is to get the rope and hang a rapper by the throat. I got some open to see what's in them. Whack rhymes and a pound of ism, yo. Who said that I wasn't living proof of a true MC? Couldn't be further from the truth from lyrically. I test your God's credibility and jealousy. I tolerate no rivalries. The genres on hip hop is creativity and show skill, whether it be real or fantasy. So I choose to be a vocabulary warlord. When whackness pops his ugly head, my words chopped it like a sword. A post-lyrical wasteland warrior, I exist to execute you for excuse for a soldier. And there's nowhere to turn to. When I say drop the mic, you do that, cause in rap I own you, react at will. But still, never forget that God's gifts are scientists. You're just a lab rat. Sucker, sucker, sucker, sucker, sucker. The antidote to the antidote is to tie your limbs each into a horse like Indian torture. So the force rips your body into five different sections. Stepping super order. I heard your style's clearly a waste of free will. Worse still, freedom of speech wasted on the no skill. So what it boils down to, shut it if you don't cut it, you vile insidious maggot. Poor excuse for an MC style. Crab busting whack blows. Get rid of these deliveries that suck like black holes. The remedies to this is God's gift, attack swift. Next to me, Raijin, the wind god don't exist. It's futile to call on God's name when your lifestyle's disgusting. If I'm lying, I'm crying. Don't trust him. Anti-friends are like anti-Christ. Deceptive, greedy, and selfish word life. Like your order, starter. Yo yo. Allora, diciamo due robe anche sugli ultimi pezzi che hai suonato, che sono del di vengono fuori da una roba che credo sia uscita oggi, giusto? Sì, sì, sì, sì. È una nuova compilation che trovate sul Bandcamp di Overnights, dove ci sono dei remix del gruppo Planet Soap. Sono molto vari, ci sono un po' di pezzi di ognuno di noi e chiaramente in free download. Esatto. Stasera ho suonato quello come Ether fatto da noi e quello di Digi. Ok, e se non mi sbaglio sono remix di dell'EP che era uscito di Planet Soap l'anno scorso su Car Crash 7, che era uscita a settembre dell'anno scorso, si chiamava Skillworm EP. Esatto. Se voi andate su Car Crash 7 sul sito, oppure andate comunque anche sui vari siti di download, Juno e compagnia, lo trovate a pago, chiaramente, perché questa è una roba che è uscita a pago. E comunque poi andate sul Bandcamp di Overnight, andate sul Blogspot, ora comunque domani quando mettiamo la playlist vi mettiamo direttamente il link, quindi ci arrivate da soli. Poi c'è da dire che è uscito su Bedroom Research OSP Days. OSP Days di Digi Galess, che chiaramente fa uscire una roba ormai. Preparatevi, perché di qui alla fine dell'anno so già che devono uscire una vagonata, una bigoncia di EP. E questo è OSP Days e lo trovate o sul Bandcamp di Digi Galess oppure andate su bedroomresearch.com. È una roba che dura, cioè credo sia una ventina di beat, comunque dura una ventina di minuti. Bene, poi voglio dire anche dell'uscita di Uxo e Forter Set. Uxo è un beatmaker livornese che sta a Milano e Forter Set, se non mi sbaglio, è di Perugia, dovrebbe essere un beatmaker di Perugia. Lo trovate sul Bandcamp di Queen Spectra, che è uscito su Queen Spectra. Sono due traccioni, uno di Ux e uno di Forter Set, che si reinterpretano e remixano a vicenda. Si chiama aperte tre parentesi QS/VS2. Vabbè, quello, chiuse tre parentesi. Quello penso sia il catalogo di Queen Spectra. Sì, no, è proprio, cioè se proprio l'EP si chiama così. Ah, okay. Si chiama Uxo vs Forter Set QS/VS2. Comunque andate su queenspectra.bandcamp.com, lo trovate e ve lo scaricate. Ultima cosa velocissima, se andate sul SoundCloud di My Name Is Ra, che personalmente ho proprio sbagliato a fare il discorso. Volevo dire che reputo veramente un buon beatmaker. Chiaro. Cioè le ultime cose che ha fatto mi sono piaciute un sacco. E comunque l'ultima traccia che è uscita, che si chiama Again, è veramente una bomba. Dopo la metto in selezione. Comunque ve la linkerò domani anche sulla playlist. Andate però su soundcloud.com/hello_ra e vi scaricate questa traccia gratis. Adesso lasciamo andare Tommy con check.

for the money, yes sir, two for the show. A couple of years ago, on Headland and DeLo. What's the starter? Something good. Where me and my nigga rode the martyr through the hood, just trying to find that hook up. Now every day we looked up at the ceiling, watching ceiling fans go round, trying to catch that feeling off instrumental. Had my pencil and plus my paper. We caught the 86 fly on your head at 2 Decatur, writing rhymes, trying to find our spot off in that light. Light off in that spot, knowing that we can rock, doing the hole in the wall club. This shit here must stop, like freeze. We making the crowd move, but we not making no G's, and that's a 1-2. Dope niggas in the Cadillac, they call us. Went from Plagueis Ball to Ball, just putting the top up on the map. It's like Little Rock to banging. Niggas say, motherfuck that plaguing. They paying, we staying, legging vocals, locales done. Made it with them big boys up in this industry, outcast. Yeah, them niggas, they making big noise, over a million sold to this day. Niggas, they take it like they 96, gonna be that year that all y'all Plagueis. They just invite me around this bitch. Your mama and your cousin too. Rolling down the strip on boats. Coming up, slamming Cadillac doors. Me and you. Your mama and your cousin too. Cade, scorre molto lentamente. Non sono mai andato via da qui. Se queste stanze è solo un altro luogo della mente, se chiudo gli occhi, volendo si può far così. Senza contare i passi poi comincio a camminare. Perso nell'eco dei miei dubbi, a volte va così. È stato un giorno troppo lungo, un giorno da dimenticare. Cose difficili, così difficili da dirti adesso qui. Respirare se non ci sai fare, se non vuoi capire. Questo è il momento in cui finisce il gioco. Questo è il momento in cui ci lasceremo andare. È come fare un salto sopra il vuoto delle cose che non sento più. Sono sul fondo e scavo ancora. Sono giù. Lasciami stare, non ci pensare. Comunque vada, lascia che la pioggia cada su di me. Lasciami stare, non mi fermare. Se nei tuoi occhi c'è riflessa la mia stessa strada. Lasciami andare, non ti voltare. Questo dolore è necessario per capire. E sarò certo che sono stati giorni veri. Perso nel ritmo strano del rumore dei miei pensieri. Yeah, yeah, yeah. Me, please. I'm not afraid who cared about the community. Check it, mad methods to put my brothers and sisters on a deathbed. You know he cheated, took what he wanted, and now you bought it. Sucking up to the devil, stepping down a level. It's who they fear is you. Who protects us from us and you from you? Yes, and it counts. Fuck the 40 ounce. I sued those bastards, yeah, they got down. I did them like a demo, threw them out the window. I took a 98 cause I never liked a limo. But pump, pump, pump, pump, pump it up. A mad grind, so mad times, that's what's up. Some ain't gonna change. I gotta rearrange, so I'm building back your brain. Wrecking records with focused up. Am I loud enough? Yeah. You got to give it up. I'm coming with a rhyme, what? I'm letting go of rhymes, yeah. I never get a rhyme through the rough and crazy times. Call me a Hannibal Lecter, yes I checked it. An old M&O, so here it go. I'm sick and tired, so sly and take you higher. But I'm taking the sound to bring you down. Rap is ripping, a lyrical kicking, finger licking. But to the rhythm I'm giving, but never cotton picking. Like James Brown, I'm saying it loud. Am I loud enough? You got to give it up. Wishes of caviar, dreams of peanuts getting cream. With shells of fist scales from triple beams, I gleam. Living a life for rally, packing 50 calories, rocking lids and ballys while we do a drug deal in a dark alley. Up in casinos, just me and my Dino Primo, pushing Beamos, then Pauly Areno with two fall Latinos. Nas, he runs the whole staff. We count math for steam baths. We've seen half a Millie Jackson out there on the Queens half. Three major players getting papers by the layers, and those that betray us on the block, they rot like Amadeus. Fakers get used to shooting targets soon as the darkest. Front on the drug market, bodies get rolled up in the carpet. Those are cheaters trying to beat us. We got hookers with heaters that'll straight popping, but more shows in your top than Adidas. The leaders looking straight Tommy and our Giorgio Armani's. You want a homie and us, you got to come get through a whole army. The Cielo rollers, Monty Bola, sipping bola, holding that payola, slinging the coke without the cola. Me and Black don't fake jack, but we might sling one. It ain't no shame in our game, we do our thing, son. Living a fast life with fast cars. Everywhere we go, people know who we are. A team from out of Queens with the American dream. So we're plotting up a scheme to get the seven figure dream. Woke up quick at about noon, just thought that I had to be in Compton soon. I gotta get drunk before the day begins, before my mother starts bitching about my friends. About to go and damn near went blind. Young niggas at the pad throwing up gang signs. Ran in the house and grabbed my clip with the Mac-10 on the side of my hip. Bailed outside and pointed my weapon. Just as I thought, the fools kept stepping. Jumped in the foe, hit the juice on my ride. I got front and back and side to side. Then I let the Alpine play. Bumping new shit by NWA. It was gangsta at the top of the list. Then I played my old shit, it went something like this. Cruising down the street in my 6'4", jocking the bitches, slapping the hoes. Went to the park to get the scoop. Knuckleheads out there, cold shooting some hoops. A car pulls up, who can it be? A fresh El Camino rolling Kilo G. He rolled down his window and he started to say, it's all about making that GTA. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Yo, man. bombe. Yeah, yeah. Bombe. Bombe. Bombe. Donald B's in the place to give me the pace. You say my man JD is on free base. The boy JD. Ah, mi dispiace interrompere la voce di Eazy-E. Madonna, sto pezzo. Questa è la colonna sonora proprio di ogni giorno, praticamente. Boys in the hood. Allora, sono rimasto da ricordare, sono rimasto proprio da dire in realtà. Tutte le serate, guarda qua, avete scritto nel frattempo. Mi avvia a contare le lucciole. Allora, andiamo per ordine. Allora, stasera, ora appena finisce Ragnar Paisa alle 10:30, no? Che avete finito di mangiare e fare tutte le vostre cosine. Ci avete due opzioni, perlomeno qua ce ne scritte due. Allora, allo Yab c'è DJ Vadim, più chiaramente Master Freeze, che è il resident da una vita. Allo Yab stasera. Invece al Viper c'è Vitalik, Dub FX e Walkie Talkie e Numa Crew. E stasera va così. Poi invece venerdì, allora venerdì iniziano le Vibra Night alla Flog, le serate storiche di reggae all'Auditorium Flog. E venerdì c'è Bizzarri Family con live Rustaweld e Lion D. Annuisci. Sì, sì. E sempre venerdì invece a Pisa, al Caracol 2.0, Crimea X, storia di Black Friday. Poi gran finale, dico questo e poi tiro un raudo, un magnum qua sotto, gran finale col botto. Sabato invece, per chi vuol farsi un giretto, sempre a Pisa, però al Nevroz, Andrea Mi e da Bologna Paolino Mad Kid. That's all. Te? Tutto a posto? Io sto bene. Vabbè, c'è Duccio. Ci risentiamo più tardi. Il tempo no, di. Ma nemmeno. A parte è vero, no? Non ci risentiamo, è vero. Ci sentiamo next week. Mi sono spiazzato da solo. Ci risentiamo settimana prossima. Sempre lunedì, sempre alle 21. Stateci bene per chi vuol vedere titoli, tracklist e quant'altro di quello che vi siete sentiti stasera. ragnarpaisa.blogspot.com. Domani trovate tutto lì. Ciao, a settimana prossima. Chicago fella, but Tindy play me like he was all better. I ain't kidding, I ain't getting no sleep. And shit deep like what's under the devil feet. And my words are immortal and y'all niggas so trendy. mangiano intorno a me. C'è col sole ma non c'è. Dormi ancora la campagna, forse no. La sveglia mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odore di grano, sale adagio verso me. Quasi paura che si perda. Behind me, but you are not part of me anymore. All around me, I can feel the smell of you, and the world is waving back and forth. Come to see me, remember what I was before, come to see. Find me anywhere. front of you is not there. If your face can see my eyes, all around you is the absence of my world. Can you live without this one anymore? Come to see me. Come to look inside my soul. Come to see if the world is really dead. Anyone can see the star behind me. No one like I'm sure. Tell me, what did you feel when you left me empty alone? But I know I'm still standing. Everything you could try to give to buy me, you can give them back it. Dentro una teglia, poi nel forno a fuoco ben alto, al caldo. Se nel pomeriggio sei strano, fa coi sogni tuoi un involtino, tienilo a portata di mano, vicino. You promised April, that's your mind. Shoot, shoot, shoot, shoot. married and having a house in the country. Love's a feeling, and so is stealing. Do you hear me? I hear you.